La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.31 primi e 15 secondi, siamo in diretta da Milano, Oscar Giannino vi saluta, questo siamo, nel senso che vi accomuno a me, non è che uso il plurale di maestà, e grazie per l'ascolto, l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E andiamo subito al tema della giornata per chiedervi di telefonare, perché oggi parleremo di ciò che stiamo apprendendo nel tempo da un bravissimo, secondo me, almeno giornalista, che da 2 anni si sta occupando, tra le diverse cose di cui si occupa, è il nostro ospite, tra un po' ve lo presento, di che cosa avviene in Poste Italiane su gli indici che controllano la qualità del servizio di Poste Italiane. Per esempio i tempi di consegna medio dei diversi tipi di affrancamento postale. Allora, la domanda che io vi faccio è, se non vi disturba troppo, intervenite all'800240024 oppure dateci opinione 349-238-6666 per dirci se usate ancora le poste, le affrancature e i pacchi di poste, e cioè se non avete ridotto solo alla corrispondenza elettronica le vostre comunicazioni interpersonali o commerciali d'ufficio, le vostre esperienze in merito ai tempi di consegna che riscontrate davvero rispetto a quelli vantati con percentuali molto elevate e molto migliorati nel tempo da Poste Italiane. Ci occupiamo esattamente di questa cosa, quindi chiamateci per dire: sono così rapidi e solleciti le consegne delle le buste che vi arrivano, delle lettere, dei pacchi, oppure avete ancora esperienza di una distanza molto considerevole da ciò che vi aspettate e il tempo davvero impiegato dalla corrispondenza? Naturalmente i tempi sono diversi, gli indicatori di qualità per tipo di centro urbano, eccetera, eccetera, però mi interesserebbe capire quanto e come e se voi avete misurato in questi ultimi anni un miglioramento così elevato degli indici di qualità nel servizio offerto da Poste Italiane come quelli che sono vantati. Attenzione, questi indici di qualità non servono come indicatori così, tanto per curiosità giornalistica, costituiscono dei termini di riferimento che vengono raccolti dalla AGCOM, cioè dal regolatore di settore, servono per avere in cambio dei contributi dall'Italia per il servizio universale, molto rilevanti, centinaia di milioni l'anno a Poste, servono anche per avere riconoscimenti europei e hanno fatto parte integrante delle comunicazioni che erano connesse alla quotazione del titolo di Poste nello scorso autunno, titolo che andò in quotazione a 6,75 euro, oggi sta in questo momento, vedo che l'ultimo prezzo rilevato qui dal sito del Sole, Borsa Italiana, è 5,59, quindi ha perso più o meno un poco meno del 20% da quando è stata quotata. Detto tutto questo, quindi sono indicatori che rappresentano, devono rappresentare delle cose certificate ufficiali, non è che ci si può improvvisare. Allora, questo collega giornalista che scrive sul Fatto Quotidiano ha cominciato 2 anni fa a lavorare su piste interne per capire meglio se le voci che gli arrivavano, e poi ha avuto delle conferme, adesso ce le racconta, del fatto che questi indicatori di qualità erano, tra virgolette, ma nella realtà a quanto pare, dico a quanto pare perché c'è anche un'indagine della procura, anche se da quello che risulta è un'indagine verso ignoti, erano truccati. Allora, siamo in presenza di un'azienda a controllo pubblico che fa vanto al miglioramento dei suoi servizi e trucca gli indicatori sulla cui base vanta il miglioramento della sua gestione? Parrebbe proprio di sì. E quello che abbiamo accumulato nel tempo per passi progressivi lo dobbiamo infatti al fatto che ci sono dei giornalisti, lo so che i giornalisti godono di scarso credito, però ci sono dei giornalisti che lavorano tenacemente sulla pista di inchieste interne e passo dopo passo rendono un servizio. Questo è almeno il mio giudizio. Il collega si chiama Antonio Massari e io sono molto grato di ospitarlo e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito oggi pomeriggio. Antonio. Grazie a tutti voi e grazie per i complimenti. Ma no, non sono complimenti, sono cose reali. Allora, tu hai cominciato in realtà 2 anni fa a lavorarci sopra. Sì, sì, ho iniziato a lavorarci perché diciamo, un episodio, è un aneddoto anche divertente, perché c'era una lettera che il Presidente della Repubblica Napolitano aveva inviato alla Procura di Palermo per spiegare che non poteva presentarsi in procura nell'ambito del processo trattativo Stato-Mafia, E questa lettera le agenzie di stampa dicevano che non era mai arrivata. Per cui si era creato quasi un caso politico, no? Sulla comunicazione di questa presenza importantissima nel processo. Contestualmente seguivo una vertenza sindacale che riguardava i CMP di tutta Italia. I CMP sono i centri di meccanizzazione postale. È semplice spiegarlo, come il cuore pulsante, esatto, di tutta la macchina della consegna delle poste. Sono dei grandi macchinari, qualsiasi lettera noi spediamo, qualsiasi pacco passa per un CMT. Esatto. E, diciamo, sono proprio i polmoni, ecco, aspirano lettere e trasmettono lettere. E inoltrano, certo. E le inoltrano. Allora, io seguivo questa vertenza perché i CMP di tutta Italia, questi centri meccanizzati, erano stati affidati per appalto. So che la cosa vi farà sorridere, erano stati sottratti a un'azienda di metalmeccanici che se ne erano occupati per tanti anni, e questi CMT erano stati affidati a una società di pulizie. Quindi, intanto, questo servizio è outsourced, come si dice, cioè esternalizzato, sono dipendenti di società a cui viene dato in gara questo appalto. Esattamente. Quindi, però erano lavoratori di una società di pulizie. Esattamente, che non aveva mai avuto nessuna esperienza nel ramo precedentemente e che stava assumendo in quei giorni, cioè subito dopo aver vinto l'appalto. In realtà la vicenda sarebbe molto più complicata e complessa, ma non la spiego adesso. Certo. Ci interessa però, mi interessava, diciamo, in quel momento capire perché una società di pulizie potesse gestire un sistema così importante. Quindi iniziai a seguire questa vertenza sindacale. Gli operai non volevano avere un contratto multiservizi, volevano essere riconosciuti come operai metalmeccanici, quindi dissero come coloro che lavoravano alla dipendenza dell'azienda che precedentemente, sempre per appalto esterno, gestiva il servizio. Esatto, e questo non è un dettaglio secondario, perché il ruolo dei sindacati, secondo me, in tutta questa vicenda è fondamentale. No, questo forse spiega perché naturalmente a essere stata prescelta nella gara era una società che consentiva un tipo di contratto meno oneroso per Poste. Chiuso parentesi. È anche la mia opinione. Cosa scopro però in quel momento? Qualcuno inizia a dirmi, sia tra le tante persone con cui parlavo in quel periodo, mi dicono: guarda, ma tanto... tu pensi che il controllo della qualità sia poi così effettivo? Io immagino di sì. A quel punto facciamo un test con il giornale, ci spediamo diverse decine di lettere per vedere se rispettavano gli standard di recapito dichiarati e certificati. Esatto. Diciamo che su 20 ne arrivano in tempo tipo 2 o 3 e le altre a scansioni veramente con ritardi piuttosto elevati. A quel punto delle fonti riescono a individuarmi il trucco. Il trucco qual è? Il trucco è questo: Poste certifica un coefficiente di qualità. In sostanza dice: io consegno questa lettera in 2 giorni, facciamo l'ipotesi per quanto riguarda la tempistica. E il 97, il 98% delle lettere che voi mi date, mi consegnate, mi affidate, io le consegnerò in 2 giorni. Mm-hmm. Sulla base di questo coefficiente di qualità, come dicevi tu prima, si fondano tutta una serie di ipotesi, anche contrattuali, perché lo Stato paga ogni anno 260 milioni di euro a Poste perché rispetti questo contratto. In realtà questo coefficiente veniva monitorato attraverso una società terza che si chiama IDI, che il governo indica. Pensate quanto è importante questo coefficiente, cioè la GCOM, il governo dice a una società terza che si chiama IDI, controlla se Poste rispetta questo coefficiente. Come fa il controllo di Poste? Esattamente come l'abbiamo fatto noi del fatto, ma invece di spedire 20 lettere se ne spediscono migliaia. Quindi la IDI ha una rete di collaboratori che spedisce lettere gli uni con gli altri e certificano in quanto tempo arrivano. Però apparentemente nel discorso, nel racconto che stai facendo fino a questo momento, c'è la terzietà di un certificatore sia rispetto a Poste, sia rispetto alla società che ha in appalto la gestione del centro meccanizzato di Inoltro, quindi le due parti che potrebbero avere un interesse, diciamo, a truffare, ma se c'è una società terza individuata dal governo che poi deve certificarlo agli occhi anche dell'autorità di settore, sembrerebbe che tutto dovrebbe andare per il verso giusto, perché i terzi vengono scelti sulla base proprio di non avere interesse diretto, se non a una certificazione regolare di questi indicatori. E invece? E invece succede che scopro che all'interno di Poste Italiane conoscevano i nominativi dei collaboratori della IGI che si spedivano le lettere tra loro, e quindi il controllato conosceva i suoi controllori. E naturalmente, immagino, sapendo da dove si originasse il flusso, quelle lettere in particolare arrivavano molto in fretta. Esattamente. Ora, questo concetto però noi dobbiamo provare a visualizzarlo. Ritornando ai CMP, a questi centri di meccanizzazione postale, voi dovete immaginare che questa lettera, in un flusso di milioni di lettere, riesce ad avere una corsia preferenziale. Non è qualcosa che si può mettere in moto così semplicemente. Ah no. Perché è una catena che coinvolge numerosi passaggi. E infatti le persone, i testimoni che mi hanno raccontato, alcuni mi hanno raccontato delle macchine all'interno dei CMP che subivano dei blocchi per far passare prima queste lettere. Altri mi hanno raccontato che addirittura controllavano che colui che riceveva la lettera la prendesse effettivamente dalla buca. Però ero in una fase ancora in cui le prove riuscivo a ricostruirle a piccoli tasselli, il mosaico non era ancora completo. A un certo punto incontro un'altra fonte che mi dice: guarda, quello che tu hai scritto è tutto vero, ma è molto più di così. Fino a questo momento le fonti erano solo dell'ISI, cioè la società esterna che gestisce in appalto i centri meccanizzati, o c'era anche qualcuno di Poste? Allora, a questa domanda non ti posso rispondere, però posso dirti che le fonti erano già tante. Ho capito. E essendo così ramificata in Italia, chiaramente i CMP sono tantissimi, e quindi io in particolare, questo ti posso dire, avevo dei buoni contatti con dei CMP che erano verso il nord. All'interno di Poste c'era gente che mi raccontava, ma ovviamente aveva molta paura di parlare. Alla ISI ovviamente mi smentivano che tutto questo fosse possibile, e anche a Poste mi smentivano che tutto questo fosse possibile. Oppure quando glielo ho dimostrato che in alcuni casi era stato possibile, mi hanno detto: va bene, ma si tratta di casi isolati, potrà essere capitato per uno, non altera il campione. A un certo punto però altre fonti mi fanno vedere delle mail interne a Poste Italiane in cui viene predisposta una vera e propria procedura denominata noti invii. Quindi nella scala gerarchica, a partire dai funzionari per arrivare al portalettere, i nominativi dei controllori, quelli che ISI avrebbe dovuto tenere segretissimi perché tutto il sistema fosse controllato correttamente, erano stati invece messi in qualche maniera a conoscenza di Poste. Nella procedura noti invii era previsto che queste lettere, che in gergo si chiamano lettere civetta, venissero non solo inserite in una corsia preferenziale, ma addirittura, e per questo motivo il garante della privacy ha aperto un fascicolo, veniva controllato colui che riceveva la posta e la sua buca delle lettere per vedere se l'aveva già ritirata, per vedere se veniva sollecitato a ritirarla. Quindi c'era una sorta di spettre, tra virgolette, dedita a controllare queste lettere. Ogni singolo passo della movimentazione di quella busta era soggetto a una procedura ad hoc, il che significa naturalmente che per elaborare i software necessari, le disposizioni necessarie per il personale e così via, bisogna, sottolineo tre volte questo verbo servile, bisogna ipotizzare il pieno concorso di dirigenti, non sono mica i dipendenti o della società che c'è l'appalto o di Poste che organizzano una cosa simile nella catena gerarchica. Mi sbaglio? Assolutamente, questo è un punto nevralgico al quale, se vuoi, arrivo tra un minuto. Sì. Cosa accade? Che dopo che il Fatto Quotidiano pubblica queste email, la Procura di Roma, tra l'altro riceve anche un esposto da una delle persone che aveva assistito a tutto questo, la Procura di Roma apre un fascicolo, il garante della privacy apre un fascicolo. Nel frattempo bisogna sottolineare che c'è stato anche un cambio di amministrazione ai vertici di Poste. Non c'è più Sarmi, ma arriva Caio. In quella fase arriva Caio. Poste Italiane avvia un audit interno. Ora, mi riallaccio a quello che dicevi tu prima. Quanto è importante quello di cui stiamo parlando? Tutti possono fare questo esperimento, anche voi in redazione, se avete un secondo lo fate rapidamente. Se prendete il prospetto informativo di ottobre, col quale Poste si quota, esatto, in borsa, esatto, a pagina 97, tra i fattori di rischio c'è scritto che Poste Italiane rischia delle sanzioni molto gravi, addirittura rischia di perdere il servizio di posta universale, cioè, e sottolinea che terzi hanno denunciato l'esistenza di anomalie nel servizio di qualità, e per terzi si intende il Fatto Quotidiano, esatto, e le sue inchieste, e inizia a spiegare quali sono i risultati dell'audit interno, cioè dell'indagine interna svolta da Poste. Allora, qui ti interrompo per un minuto perché abbiamo le informazioni stradali e vediamo che cosa all'atto della quotazione, in quel documento, che è un documento necessario e fondamentale per dare le informazioni obbligate e sotto la vigilanza della Consob ai risparmiatori per decidere se o meno sottoscrivere il titolo, che cosa dice l'azienda esattamente di ciò che era emerso intanto e fino a quel momento, grazie ad Antonio Massari e al Fatto Quotidiano. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:48 primi, con noi Antonio Massari del Fatto, e ci ha spiegato da quali mosse, per quale ragione, da 2 anni è sulle piste di questa identificazione di un fatto che è molto rilevante, cioè la falsificazione, la truffa eventuale, poi vedremo cosa giudicherà la procura, eccetera eccetera, ma insomma comprovata nelle inchieste giornalistiche fino a questo momento degli indicatori di qualità della consegna di Poste Italiane. E eravamo arrivati al punto in cui appunto citavi il documento, il prospetto collegato all'offerta pubblica d'acquisto dei titoli in borsa di Poste. E che cosa diceva Poste? Poste diceva che in seguito alle segnalazioni di terzi, quindi alle nostre inchieste e anche agli esposti presentati in procura, era emerso che il controllo della qualità aveva avuto comportamenti, procedure che andavano oltre la policy dell'azienda, cioè tradotto sono state adottate procedure fuori norma, fuori dalle norme previste da Poste. E in più aggiunge, questa situazione può portarci a delle grosse sanzioni, quindi avvertiamo chi ci acquista che noi potremmo subire dei danni, ma ancora peggio parla di una eventuale possibilità di perdita del servizio di Poste Universale, esatto, cioè che Poste non possa più spedire, che sarebbe diciamo un evento, devo dire, catastrofico per un comparto comunque, come dice Caio, non c'è Poste senza Poste. Ma l'audit e l'indagine amministrativa interna, a che cosa è sfociata di Poste? Allora, l'audit interna, l'indagine interna, che è consistita nel prendere da parte di Poste, dagli ispettori di Poste, i computer dei loro dipendenti, ha trovato quello che noi avevamo scritto. Esistevano delle email, esisteva una procedura interna, addirittura io mi ero fermato al 2010, l'audit interno, l'indagine interna di Poste dice che ha verificato che questa prassi è andata avanti fino al 2014, quindi dal 2006, per quanto riguarda quello che ho verificato io, fino al 2014 questa prassi è esistita. Qual è il punto però? Che Poste ha dovuto ovviamente dare delle conseguenze alle sue indagini interne. Le conseguenze sono state dei licenziamenti, parliamo di decine di licenziamenti di funzionari, quindi capi area, insomma, chi aveva la responsabilità delle varie regioni, se immaginiamo Poste divisa insomma per regioni, e poi centinaia, quindi stiamo parlando in totale di un migliaio di provvedimenti, centinaia di lettere di contestazione che hanno comportato la sospensione dal lavoro per 5, 6, 10 giorni ha un grandissimo numero di dipendenti, Ma stiamo parlando, per essere onesti, dei portalettere. Ora, a questo punto subentra un interrogativo di ordine logico. Perché il portalettere Già. di per sé, con uno stipendio di 1.200 euro, doveva partecipare a tutta questa strategia? E altra domanda che arriva immediatamente dopo è il ruolo dei sindacati, perché ovviamente i sindacati rispetto a una procedura così dura da parte dell'azienda verso migliaia di dipendenti non può tacere. In realtà non ho sentito in questi, questo è avvenuto a gennaio, a gennaio è partita questa ondata di licenziamenti e di lettere. C'è stato un grande silenzio dei sindacati. Ieri sera il segretario nazionale del più grande sindacato di Poste, che è CISL, CISL. che conta il 53% degli iscritti, decide di scrivere all'amministratore delegato Francesco Caio. E scrive delle cose gravissime. Alcune ve le posso citare testualmente. Parla di un rischio per Poste. Il rischio qual è? Che i lavoratori che sono stati puniti chiedano i danni a Poste, per essere stati magari ingiustamente puniti. Parla addirittura della possibilità del più grande contenzioso giudiziario per Poste Italiano abbia mai affrontato per ragioni disciplinari. Esattamente, è che è mettere sul tavolo dell'amministratore delegato una bella grana. Ma soprattutto, oltre ad aver detto, oltre a scrivere che in tempi non sospetti aveva comunque denunciato delle anomalie, io vorrei capire se aveva Denunciato però a denunciato. chi? Perché? Esatto, a questo punto a chi, e sarebbe interessante sapere esattamente cosa ha Già. denunciato, ma nel suo comunicato il segretario Petitto della CISL non lo dice, e dice due frasi che vanno interpretate meglio perché non risultano chiarissime. E Petitto dice le mail da cui nascono le contestazioni ai lavoratori sono degli atti ufficiali, perché sono atti dell'azienda. Presuppongono, dice Petitto, una catena gerarchica che arriva fino ai vertici aziendali in un'unica regia nazionale. Nazionale, esattamente. E questo è tutto da capire. Devo dire che noi abbiamo chiamato sia la CISL che la CGIL, non sono venute ai microfoni oggi. Io naturalmente non ho nessun dubbio per credere che non fosse possibile, però mi sembrava elementare il loro diritto-dovere di parlare, ma oggi non hanno accettato di parlare di questo argomento. A me sembra molto, molto, molto, molto, molto singolare che i sindacati non parlino. È evidente che è chiaro anche ai sindacati che cosa rischia l'azienda. Questa è una storia gravissima, cari ascoltatori, perché quando io abbiamo fatto trasmissioni criticando l'assetto con cui veniva offerta al mercato Poste, ed esattamente il fatto che le consegne del servizio universale sono oramai la parte in cui sono in perdita rispetto ai soldi che fanno in banca e assicurazioni che non c'entrano niente con il core di Poste, capite che chi criticava aveva forse qualche fondamento per essere ascoltato in più. Aggiungo, c'è anche un'interrogazione che stamattina, grazie agli articoli del Fatto, hanno ulteriormente presentato un'interrogazione parlamentare al ministro Guidi del Movimento 5 Stelle, l'aveva già presentata nel 2014, ma il governo non ha risposto fino a questo momento all'interrogazione parlamentare dei 5 Stelle, che parte esattamente dalla denuncia che vi ha raccontato il collega del Fatto, Antonio Massari. Speriamo di avere una risposta, perché credo che essere presi in giro dalle aziende pubbliche del servizio universale che lucrano centinaia di milioni avendo organizzato per anni trucchi interni di questo tipo e non ci dicono chi erano i dirigenti responsabili, non fanno azione di responsabilità, non solo licenziamenti, secondo me è molto, molto, molto, molto, molto, sottolineo ancora una volta, molto grave. Continuate con Radio 24, appuntamento domani mattina, mi scuso con tutti i radioascoltatori che erano tantissimi, che erano in fila per le telefonate, ma era meglio che sentiste fino alla fine le risultanze di queste inchieste, che non sono finite perché Massari ci tornerà sopra, non ho nessun dubbio. Appuntamento alle 8:15 domani mattina, attenti a noi due, insieme a me Alessandro Milan.